Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, benvenuti, sono le 11.07, noi siamo pronti per ascoltare i temi del giorno, abbiamo Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, allora siamo pronti per partire, andiamo. Ogni riccio un capriccio, le mamme lo sanno bene, un menù a tutta freschezza, come arrivare preparati a un appuntamento importante per fare centro. Capriccio di mattina, la pioggia si avvicina. Capriccio a mezzogiorno, meglio togliersi di torno. Capriccio micidiale, giornata assai speciale. Capriccio di sera, buonanotte poi si spera. Eh sì, buongiorno, oggi parliamo di capricci, il secondo martedì del mese e i capricci sono il tema scelto dalle mamme blogger dei blog di tutta Italia che hanno selezionato come tema più interessante tra la rosa che abbiamo proposto quello dei capricci. Abbiamo proprio voluto iniziare la puntata di oggi con una bella filastrocca tratta dal libro Capricci che passione di Giusy Quarenghi e Chiara Carrer e in effetti la filastrocca lo dimostra, ci sono capricci e capricci. Di fronte ai capricci ci sono genitori e genitori, c'è chi interviene, li ferma sul nascere, c'è chi invece li asseconda con la speranza di farli smettere subito, c'è chi urla ancora più forte del bambino che si sta sgolando nel suo capriccio e si accorge ahimè di non ottenere nulla e infine c'è chi ha dei bambini che non fanno mai capricci. Insomma, oggi la nostra trasmissione potremmo intitolarla Un mondo di capricci. In studio con me ho una rappresentanza delle mamme blog. Abbiamo Yolanda che è tornata a trovarci, il suo blog è Mamma che Spasso. Yolanda, bentornata. Buongiorno a tutti. Insieme a Yolanda è venuta anche Veronica, anche lei al terzo appuntamento, ormai sei di casa anche tu a Essere Benessere. Il suo blog è manager di me stessa. Esatto. Eravate capricciose? No. Per un soprammobile. Io forse. E tu Yolanda? Sì, non posso mentire. Ma in studio con me c'è un medico, grande esperto di prevenzione in età evolutiva, nonché grande esperto di bambini, visto che tra l'altro in casa ne sta crescendo, non da solo naturalmente, insieme a sua moglie che è una santa, ben quattro, quindi ha capricci da raccontarci di tutte le età, che è il mio inquilino del sabato, Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Capriccioso da piccolo? No, anch'io credo un soprammobile. Io ero molto capricciosa e sentiamo se era anche capricciosa la dottoressa Manuela Trinci. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi e purtroppo ero una bambina buona. Anche, è stata la mia rovina. Anche lei una bambina buona, bravissima, Manuela Trinci, gli ascoltatori di Essere Benessere di questa casa non è un albergo, la conoscono bene, è psicoterapeuta dell'età evolutiva. Allora, dottoressa Trinci, lei non li faceva, ma dei capricci ne sa, e allora io volevo subito chiedere a lei che cos'è realmente un capriccio? No, guardi, le tesi sono discordanti. Un conto, io credo, siano le tesi dei cosiddetti esperti che enfatizzano molto l'età dei capricci, quei terribili 2 anni, no? E in effetti l'età dei no, l'età della collera bianca, eccetera, eccetera, dove viene enfatizzato come un momento anche di soggettivizzazione del bambino, cioè attraverso un dire di no, attraverso fare delle bizze e dei capricci, il bambino, diciamo così, delimita un suo proprio spazio personale. Comincia a staccarsi da quelle che sono le figure importanti intorno a lui. Un conto è sentire che cosa sono i capricci e le bizze dal punto di vista dei genitori. Sono dei momenti da mettersi semplicemente le mani nei capelli, perché come diceva giustamente lei all'inizio introducendo il nostro lavoro, i genitori sono veramente disperati certe volte di fronte a questi bimbini di un anno e mezzo, 2, 3, 4, forse qualche volta anche di più. 5, 6, 7, 8, perché continuano. 12, 13, no. Adolescenti. 42. Esatto, che effettivamente ti mettono in scacco, perché quando un bambino piccolo, io l'ho visto proprio recentemente di fronte al tabaccaio, si è buttato per terra, ha cominciato a urlare e le persone intorno dicevano chiamiamo il telefono azzurro, cioè la mamma si sente molto in imbarazzo. Ecco. Certo. Cosa fare? Cosa fare? E noi oppure lo scopriremo. Potrebbe però anche dire cosa pensare per provare a cominciare a buttare un un'idea, ecco, fra gli ascoltatori. 824-0024, non siate capricciosi, raccogliete l'invito della dottoressa Trinci, ma io approfitto subito delle mamme. La dottoressa Trinci diceva, mettono veramente in scacco le mamme, c'è da mettersi le mani nei capelli. Allora, quali sono, lo chiedo a Yolanda e a Veronica, i capricci che vi mettono più in crisi? Inizierei da Veronica. Ma io in questo momento sto vivendo una fase di grande capriccio della mia bambina più piccola, che ha 16 mesi, e la cosa che mi manda più in crisi, più che un singolo momento dei suoi capricci, che ultimamente sono frequentissimi, quindi in realtà non c'è il singolo momento, è il fatto di non riuscire a interagire con lei in modo costruttivo. Questo mi frustra molto, perché con l'altro, che ha 3 anni, riesco a creare una forma di dialogo, per cui si arriva a una soluzione anche di compromesso. Invece con la bambina vedo che proprio il dialogo non ha alcun senso, per cui solo con la costrizione fisica o con l'imposizione della mia autorità materna riesco a venire fuori a certe situazioni, e neanche troppo bene. Quindi secondo me la cosa proprio che mi indispettisce di più è proprio questo fatto di essere una genitrice poco efficace secondo i miei standard. Allora, i dati su cui lavorare sono a 16 mesi, femmina secondogenita. Andiamo a Yolanda, che invece può spaziare avendo 3 figli. Esatto, io, ecco, ne ho un po' di tutte le età, e sì, diciamo che all'inizio con la prima bambina ero abbastanza spiazzata, adesso più o meno dopo 3 riesco a gestire la cosa abbastanza bene. Diciamo che il capriccio è sempre comunque fastidioso, soprattutto se, come diceva la dottoressa Trinci, è in pubblico, tipo la scena dal tabaccaio, e ogni tanto succedono. E quel che è peggio è che crescendo i bambini magari lo fanno anche un po' apposta, nel senso, siccome si rendono conto del momento in cui tu sei un po' più in crisi, cioè se faccio un capriccio da sola a casa è un conto, se faccio un capriccio invece in pubblico è tutto un altro, e allora sono furbi. Alberto, prima di metterci al lavoro insieme alla dottoressa Trinci, quindi aiutare le nostre mamme e le mamme in ascolto che vorranno sottoporci i capricci su con i quali non riescono proprio a interagire, quali sono i capricci che mettono in crisi secondo te i papà? Ma più che capricci che mettono in crisi i papà, ci sono papà che vanno in crisi di fronte ai capricci dei figli. Cioè i papà mancano spesso proprio di quella santa pazienza, di quel saper stare con un bambino dentro un capriccio, che poi la modalità con cui poterlo tirar fuori da un capriccio. Quindi se i papà si spazientiscono molto molto in fretta, le due dinamiche tipiche dei papà sono: o lasciano la scena e se ne vanno, quindi la mamma s'arrangi col bambino al capriccio, oppure alzano la voce, cominciano a gridare tantissimo e in qualche modo usano un approccio spaventante sul bambino, per cui effettivamente il bambino si spaventa, ma in nessun modo risolve l'eventuale conflitto che era la base del capriccio. Allora, possiamo quindi affrontare i capricci da tanti punti di vista, ma forse è meglio seguire le vostre indicazioni. Chiamateci, diteci quali sono i capricci dei vostri figli che vi fanno impazzire, come li affrontate, vi sentite efficaci, c'è qualcosa che vi manda in crisi? 824 0024, se avete una strategia che funziona, naturalmente condividetela con noi, siamo pronti a prendere appunti. Se volete scriverci, 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso voltiamo pagina, ci trasferiamo in cucina, ci aspetta il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano e autore insieme a Luca Speciani del libro Dieta Gift, dieta di segnale, edito da Rizzoli. Dottore, buongiorno. Buongiorno, ho messo su già il cappello da cuoco. Bene, magnifico. Senta, dottore, il caldo toglie un po' l'appetito e questo per alcuni suona un po' come una buona notizia. Il problema è che spesso si rischia di saltare i pasti, ma di smangiucchiare cracker, biscottini, patatini, con la scusa che intanto a pranzo non ho mangiato. Risultato, proprio nel momento più, diciamolo, favorevole dell'anno, accumuliamo i chili. Allora, regola numero uno, dottor Speciani, lei lo ripete spesso, non saltare i pasti, ma ad adattare le ricette alla stagione? Sì. Ecco, infatti la dieta, devo dire, che riesce a darci tutto quello che il nostro organismo ha bisogno per stare bene anche nei momenti difficili come questo del grande caldo. Certo, pensa che è una cosa deliziosa, direi, come ogni stagione ad esempio ha i frutti e le verdure che contengono di per sé già delle sostanze positive per migliorare le condizioni di questo periodo, ad esempio tutta la frutta tipo appunto le albicocche, le pesche, piuttosto che le prugne eccetera che ci sono in questo periodo sono estremamente ricchi di salicilati naturali, cioè delle sostanze molto simili all'aspirina che fluidificano un po' il sangue. Pensa che gioia, cioè la natura già ti predispone a delle sostanze commestibili che in realtà ti impediscono poi di avere problemi venosi, tutta una serie di cose di questo tipo. E proprio sul calore, sul caldo, su questo senso di stanchezza, di spossatezza, non è che dobbiamo cercare solo di mangiare un pochettino leggero. Una delle cose che io spiego, come giustamente hai detto prima, cioè questo spiluccare crackerini, biscottini, pezzettini di pane, pezzettini di pizzette, eccetera, che uno dice magari ne mangio pochi ma sto leggero, no, in realtà perché sono cibi estremamente ricchi di sale. Allora cosa succede? Che uno mangia queste sostanze e il sale che è dentro, che è molto più di quello che noi pensiamo, in realtà ti gonfia le gambe. E questo sale va a distribuirsi, non sta dentro nella circolazione, qui non è che ti tiene la pressione un po' su per affrontare la giornata in modo positivo, ma va esclusivamente a depositarsi negli spazi morbidi dell'organismo, quindi extravascolare, quindi gonfia le caviglie, gonfia le gambe, gonfia tutto quanto, i piedini, insomma non sta bene, no? Sì. E poi ci sono questi signori che vanno in giro con i piedini a salsiccina, come li chiamo io, che non è niente di positivo da vedere. Sì. Allora, pensa che ci sono dei trucchi, delle strategie. Una prima colazione fatta serenamente, giusto appunto, ho citato prima albicocche, pesche, magari mischiate con lo yogurt, in modo che abbiamo un bilanciamento di carboidrati e proteine, non utilizziamo dei cibi salati, non utilizziamo formaggi, salumi e cose di questo genere, basta uno yogurt fresco, ottimo, e della frutta abbondante. E poi la gente dice, ma le patate sono un piatto invernale. Niente di più falso. Delle patatine bollite, ad esempio, per fare un'insalata adattissima alle esigenze del gran caldo, un'insalata leggera con un pochettino di patate, un po' indietro di cottura, quando tieni più indietro di cottura l'indice glicemico è più basso, quindi ingrassano molto meno, no? Per cui un pochettino di patate tenute un po' indietro, tagliuzzate con dei fagiolini e poi dentro un po' di pomodori, di cetrioli, di altre cose di questo genere, la patata è ricchissima di potassio, non c'è bisogno di andare a prendere altri strani integratori, il potassio ti tiene il sangue, i liquidi dentro nei vasi, quindi non ti fa andare giù la pressione e ti fa drenare le gambe. Bisogna mangiarla la patatina al posto del pane, al posto dei cracker, al posto dei grissini. E quindi devo dire che le donne, ad esempio, a cui suggerisco queste cose, dicono: ma come, mangio qualcosa che mi sazia e in più non sono gonfia alla fine della giornata? Perfetto, è quello che si vuole ottenere. È quello proprio che vogliamo fare noi. Dottor Speciani, ha una ricettina anche calda? Perché dunque, sì, c'è una la invito quasi a nozze, sì mi assolutamente, racconti. Dai. Una bellissima fatta con delle acciughe, che sono un pesce povero, cosiddetto. Sì. Appena deliscate, appoggiate su una pirofila di vetro, un velo d'olio, un pochettino di aromi buttati dentro e sopra ci si mette un trito, un tritino, un battuto in cui metti dentro un po' di prezzemolo, di basilico, un pochettino di mandorle, alcuni aggiungono un pochettino di pan grattato, quindi proprio come a coprirlo con un velo. Lo metti in forno tranquillamente per un 25 minuti, lo tiri fuori, è un piatto, io lo chiamo la torta di acciughe, è buonissimo, è delizioso, ci metti intorno un pochettino di cetrioli o di pomodori freschi. Va bene per la sera, si fa velocemente, si trovano anche ormai le acciughe aperte, pulite al supermercato, magnifico, sono pronte proprio per mettere in teglia. E un dolcino? Un dolcino fresco, delicato, di quelli veramente buoni. Allora, questo tra l'altro si fa veramente in poco e la gente crede che tu l'abbia comprato nella più grande pasticceria, invece è fatto in casa, riesco a farlo anch'io, quindi posso dire. Allora Alberto Pellai è capace. Sicuramente prendi del cioccolato, lo fai fondere tranquillamente, meglio il più fondente possibile, che non aggiunto di latte e altre cose, lo fai andare o nel forno a microonde oppure a bagnomaria lievemente in modo che si sciolga. A quel punto aggiungi dei cornflakes, quelli che si mangiano al mattino, meglio se integrali, e li amalgami e a quel punto ci aggiungi delle foglioline di menta, che sono importantissime per dare un gusto tipo fresco, qualcosa del genere fresco, li tiri su a cucchiaiate e li metti sulla carta da forno finché si solidificano. Se vuoi li metti in forno, sono deliziosi. Quindi sono se i bambini non fanno troppo capricci, vanno bene anche per i bambini, dato che noi oggi parliamo di capricci. Ho sentito prima la discussione, credo che sia uno dei pochi dolci che ad esempio per il basso contenuto di zucchero e per la presenza di fibra, ad esempio data dai cornflakes, riduce l'indice glicemico e non scatena delle tensioni tipiche del bambino che ha appena mangiato gli zuccheri a veloce assorbimento. Quindi abbiamo un mucchio di cose fattibili, l'estate ci regala colori e gioie e possiamo solo metterle in pratica e gestirle bene, dai. Dottor Speciani, una domanda per lei da Veronica. Mi scusi dottore, ma allora ho capito bene, l'alimentazione influisce sui capricci? Assolutamente sì. Cioè, ci dica dato, tutto. Questo qui è un dato estremamente importante. Ad esempio, quando noi... io ho scritto un libro proprio sul prevenire e curare la depressione con il cibo e ci sono ormai dei dati scientifici molto belli per cui il fatto, ad esempio, di utilizzare dei cibi a veloce assorbimento zuccherino, quindi purtroppo sono tutti quelli con dentro molto dolce, molto zucchero, cibi molto zuccherati, determinano proprio una risposta di una iperglicemia del bambino che attiva tutte le situazioni. E subito dopo un'ipoglicemia che è un messaggio di pericolo, di angoscia. Il bambino va in angoscia, qui risponde senza ben sapere come comportarsi. È come quando noi siamo a digiuno, che perdiamo un po' le staffe. E allora questa cosa gestita con equilibrio, quindi magari bilanciando di più cibi integrali, cibi zuccherati in modo naturale, aiuta anche il bambino a fare meno capricci. C'è anche Alberto Pellai che vuole intervenire, non penso per suggerire una ricetta, ma collegarsi a quanto diceva il dottor Speciani. È talmente importante quello che sta dicendo il dottor Speciani, che da una parte è stato proprio inventato un vero e proprio programma di riabilitazioni per bambini molto agitati e molto aggressivi a scuola, che passa attraverso il fornire cibi a basso indice glicemico nelle loro mense. E un consiglio: se organizzate una festa per bambini, curate molto proprio, fate molta attenzione all'indice glicemico dei cibi che servite loro, perché nel giro di mezz'ora potreste trovarvi davanti scatenare a voi un'orda scatenata di bambini, ma proprio perché l'iperglicemia li ha resi molto molto attivati e quindi perdete il controllo. Allora dovete scrivere un libro con di ricette per bambini per evitare i capricci, per farli stare bene. A tavola non si invecchia, anzi, no? Si impara a stare meglio. Giusto. Dottor Speciani, torni presto a trovarci. Va bene, grazie a tutti. Buona giornata. Pronto soccorso. Molti ascoltatori stanno aspettando, perché hanno chiamato l'824 0024, di mettersi in contatto con noi. Diamo subito spazio ai capricci degli ascoltatori di Radio 24. Abbiamo Remo da Gorizia. Buongiorno Remo. Sì, buongiorno. Niente, volevo parlare del mio figlio, ha 2 anni e mezzo. Sì? Lo sento un po' affaticato, Remo. Adesso però? sì, perché... Stanotte si è svegliato alle 2 di mattina e voleva guardare i cartoni animati. Ci pizzica spesso. Non la invidio. Adesso a sentirglielo raccontare mi viene da sorridere, ma quando c'ero in mezzo io non sorridevo per nulla. E Remo, e quindi lei alle 2 era davanti ai cartoni? Purtroppo ho dovuto portarlo mezz'oretta. Senta, ma capita spesso questo, sì, passaggio televisivo? Sì, molto, molto. Vuole vedere solo i cartoni animati. E se non lo asseconda? Comincia a piangere, si arrabbia. Ultimamente anche sputa, beve acqua e comincia a sputare e ride poi dopo. Allora, è una vera peste. Dottoressa Trinci, glielo affido a lei. Io vi ringrazio molto. Dunque, intanto mi chiederei questo: che cosa è successo prima? Se ho capito bene, il bimbo di Remo ha 2 anni e mezzo. Allora, che tifo è? No, bisogna un po' capire che tifo è il bambino, perché non è possibile, per esempio, dire di no a questo bambino. Ecco, io credo che sia molto importante, questo direi proprio in generale, che i genitori mostrino molta fermezza. Vi faccio un esempio concreto: io spesso vado nei nidi a parlare con le mamme e con i babbi che sono presenti, e per esempio l'altro giorno una mamma mi ha detto di avere una bambina di 8 mesi che comincia a gattonare, che lei non aveva la possibilità, non voleva chiudere i cassetti che la bambina apriva gattonando e tirava fuori anche tutta la biancheria, perché aveva paura che questo divieto materno poi precludesse per esempio una possibilità di essere creativa della bambina. Ecco, allora mi chiedo che tipo di famiglia, che tipo di idea dell'educazione ci sta dietro anche a questo, perché per esempio oggigiorno c'è un po' una tendenza dei genitori a non punire i bambini, oppure a avere una difficoltà proprio anche emotiva a dire di no, magari sono figli unici, bambini molto aspettati, molto voluti, sono dei piccoli messia che arrivano in casa a portare la gioia, e quindi poi è difficile per un genitore anche imporsi. Invece io credo che di fronte a un bambino di 2 anni e mezzo che comincia a sputare, bisogna stare attenti, perché poi davvero si creano dei piccoli tiranni che non sono contenti nemmeno loro. Cioè i bambini hanno bisogno di genitori che sappiano porre dei limiti. Il bambino capriccioso non è un bambino felice, vero dottoressa Trinci? Assolutamente, assolutamente. Allora chiederei a Alberto di dare una mano al suo collega papà Remo concretamente. Adesso il bambino di Remo, che ci sta ascoltando ancora per radio, non è ancora in linea, stanotte si sveglia e vuole vedere la TV. Allora, intanto bisogna proprio cominciare la strategia prima che il bambino vada a letto alla sera, cioè dare un'aspettativa chiara al bambino che il papà ha preso una decisione definitiva, molto ferma, per cui se c'è un risveglio notturno con la consueta richiesta di vedere un cartone, da questa sera, da questa notte non è più possibile. Cambiare il rito, quindi per esempio dirgli avrai la possibilità di scegliere tra bere un bicchiere di latte oppure bere un bicchiere d'acqua oppure avere una coccola lunga del tuo papà, un abbraccio e alcune carezze. Niente cartone, il posto di un bambino alle 2:30 di notte è dentro al suo letto, e questo te lo ricorderò nel momento in cui tu ti alzerai. Bisogna anche ricordare che a 2 anni e mezzo ci vuole davvero molta molta pazienza, cioè alcuni comportamenti diventano appresi dentro uno schema che si ripete giorno dopo giorno, per cui bisogna proprio interrompere lo schema sbagliato, portare il bambino per mano lungo un nuovo schema e imparare a prendere un nuovo schema. Ce la facciamo a sentire, prima di andare ai mercati, Stefano, che ci chiama dalla provincia di Sondrio. Stefano, buongiorno. Buongiorno. Come se la cava, Stefano, lei? Ma con il bambino più grande abbastanza bene, con quello piccolo è un po' una tragedia, perché il bambino grande che ormai ha 7 anni faceva i capricci ma duravano 3-4 minuti e dopo smetteva di piangere e capiva, mentre quello piccolo va avanti anche per, abbiamo provato a farlo piangere anche per 30-40 minuti e poi alla fine smette, però il giorno dopo ricomincia. Smette per sfinimento, ma non perché... Per sfinimento, esatto. Però d'altronde non è che si può accontentare in tutto, perché vuole sempre o le cose buone che per noi gli ridiamo, oppure vuole picchiare il fratello, insomma non sappiamo come gestirlo. Così Rosabella triplicò la dose dei suoi no, e appena un barone, un paggio, una granduchessa o un generale si avvicinavano e cominciavano il solito ritornello: ma guardatela questa principessina, quanto è dolce! Rosabella cominciava a strillare e a dire parolacce, pestava i piedi, storceva gli occhi, faceva le boccacce. E tutto quello che otteneva erano una strizzatina d'occhio, qualche gomitata ammiccante e un coro di sorrisini. Che temperamento! Bella come la mamma e con la forza di papà. Ah sì? Pensò furibonda un mattino Rosabella. Vediamo se ora la smettono. Prese un paio di forbicioni dalla cesta della sua governante e... zac! Si tagliò i suoi bei boccoli biondi e fece a brandelli il suo vestito più bello, quello bianco e rosa, con il pizzo e i lustrini dorati. Quelli che avete appena ascoltato sono i capricci di Rosabella, una principessa raccontata nell'omonimo libro pubblicato dal Gioco di Leggere, da Fulvia degli Innocenti, che è in linea con noi. Fulvia, ciao, benvenuta. Buongiorno. Che razza di capricci sono quelli di Rosabella? Sono i capricci tipici, quelli in cui si urla, si battono i piedi e si fanno tutta una serie di cose creative a ogni bambino, la soluzione, perché lei si taglia i capelli perché è una principessa ovviamente, e poi mangia tanto tanto tanto per diventare grassa. Non si parla di bulimia ovviamente, si parla solo di capricci. Fulvia, tu oltre che autrice di libri per bambini curi anche una rubrica di posta per i bambini sul giornalino intitolata Cara Raffa. Sì. I bambini ti scrivono e ti parlano dei loro capricci. Quali sono quelli che magari citano di più? I capricci intesi in senso classico sono più legati ai bambini piccoli, quindi i nostri lettori, che bambini piccoli piccoli non li sono più, quando parlano di capricci parlano di quelli che sanno i loro fratelli minori. Certo. Ovviamente con molta insofferenza. È logico, sono grandi. Che non occupano la loro stanza, che la mamma gli dà sempre ragione, però tra le righe io vedo dei capricci anche nelle dinamiche tra amici, tra amichette, capricci che sono quelli di pretendere l'attenzione assoluta, capricci nel non comprendere l'altra, di tiranneggiare l'altra, ecco, anche questo lo metto nella categoria dei capricci. Senti, tu hai una tua strategia anticapriccio? La fantasia. Io li seduco i bambini inventandogli delle storie, che significa spostarli dalla situazione in cui sono in quel momento a con la fabulazione. Questa è la mia strategia. Io mi definisco una maga in questo senso. Un po' ci gioco, perché comunque anch'io ho due bambini e qualche volta i capricci li devo fronteggiare. Un po' credo che sia anche una strategia per chi non fa il raccontastorie di mestiere, cioè spostarli in quel momento con una situazione fantastica che li porta in un altro mondo. E in questo mondo fantastico creato magari si può anche cercare di far comprendere perché quel capriccio non aveva ragione di essere in quel momento. Alberto. Sì, è proprio appena arrivato un messaggio di Carlo che dice: tutti i genitori sono sicuri che siano sempre capricci quelli dei loro bambini o si nasconde qualcosa dietro questi comportamenti? E secondo me questo è il messaggio anche molto bello del libro di Fulvia degli Innocenti. I capricci di Rosabella sono in realtà capricci non fatti per sfidare un genitore, ma per aiutare un genitore a comprendere un disagio che Rosabella ha, perché tutti la vedono bellissima e che diventerà regina, e lei invece da grande vuole fare la regina di fiori, cioè la giardiniera. Secondo me questo è un aspetto molto importante da tenere in considerazione come genitori. Ci sono proprio capricci, puramente capricci, vedi dal tabaccaio al supermercato, e capricci invece che richiedono che una mamma o un papà riescano a leggere la domanda dietro il capriccio, il bisogno che c'è. Dottoressa Trinci, ha qualche idea per aiutarci a distinguere queste due tipologie di capriccio? Dunque, io credo che ci siano proprio, come diceva Rosabella, c'è anche un temperamento dei bambini, quindi per esempio ci sono dei bambini che sicuramente sono più irosi di altri bambini più tranquilli, no? Quindi questo. Poi direi anche che certe volte i capricci che sembrano così senza senso, come quello del supermercato, è vero, forse non hanno una retro motivazione, però è anche vero che magari un bambino 2 ore al supermercato si scoccia, ecco, oppure certe volte a mercati rionali si vede sti passeggini o bambini insofferenti perché sono tutti più grandi di lui. Quindi quello che a noi non sembra un motivo di capriccio può esserlo per un bambino, quindi teniamo conto, direi, parlando dei capricci, di alcune cose. Uno, che certe volte l'oppositività si impara anche, quindi i bambini fanno capricci in relazione anche al fatto che non hanno altro modo per esprimersi e magari vivono in ambienti che sono molto vietanti. Altre volte dobbiamo tener conto che il bambino è molto egocentrico, noi si sta parlando di bambini piccoli ovviamente, e che ha una grande difficoltà a mettersi nei panni degli altri. Quindi l'empatia è qualcosa che noi l'abbiamo già detto molte volte da questi microfoni, sulla quale io sono convinta i bambini vanno aiutati a diventare empatici, quindi a trovare una capacità di mettersi nei panni degli altri. Per il capriccio fine a se stesso, che poi il genitore lo comprende, io ho trovato che una mamma ha avuto un'idea straordinaria, mm-hmm, e ve la passo, che è quella di fare per la sua bambina, che andava in collera 1 anno e mezzo, 2, in una maniera intollerabile, lei ha dato un cuscino, sì, da picchiare, e hanno fatto insieme la stanza dei capricci. Ecco, mi piace questa idea, mi piace questa idea, potremmo aprirla anche per noi grandi, se uno ha una casa, no, abbastanza grande, potrebbe, lo sgabuzzino lo teniamo per noi. Veronica voleva intervenire? Sì, ascoltando la dottoressa stavo pensando a un metodo che io ho sviluppato, come penso anche molti altri genitori, con il bambino più grande, con il quale si inizia già ad avere una conversazione utile. Effettivamente a volte mi sono accorta che cercando di verbalizzare, aiutarlo a verbalizzare le sue emozioni, l'ira sfuma. Mm. A volte ho la sensazione che il bambino faccia un apparente capriccio perché non riesce a superare una frustrazione e non riesca ad esprimerla a parole. E allora cercare di innanzitutto chinarsi e abbassarsi al suo livello, guardarlo negli occhi e dirgli: è questo che tu stai cercando di dire? Cos'è che non ti piace? Con un tono di voce già diverso e non arrabbiata. Aiuta. A me ha dato qualche risultato. E Yolanda, come te la cavi? Anch'io ho i miei problemi con appunto coi capricci, e l'idea che ha dato la dottoressa Trinci mi piace molto, cioè sfogati con un cuscino e poi ne parliamo. È un po' anche la mia teoria, diciamo così, quando vedo che il capriccio diventa troppo sopra le righe, allora magari li lascio un attimo a, diciamo così, a sbollire tra loro e poi se ne parla, ecco. Fulvia, che ne pensi di questa idea della stanza dei capricci? Mi è piaciuta tantissimo, l'ho subito trasformata in un'idea per una storia. Dai, veramente, senti, non è detto, sì. Quando la scrivi vieni a raccontarcela. Certo, anche perché vi devo i copyright, ovviamente alla dottoressa alla dottoressa Trinci e alla mamma. E noi ti aspettiamo, grazie a Fulvia degli Innocenti, grazie, buona a voi. Giornata. E intanto noi andiamo nella provincia di Bergamo perché ci aspetta Roberta. Buongiorno Roberta, benvenuta. Buongiorno, grazie mille. Vorrei porre una domanda per quanto riguarda mio figlio Pietro, proprio per poterlo aiutare, visto che sono in una situazione un po' particolare. Mio figlio Pietro ha 7 anni, è un bambino solare, energico, gli piace fare di tutto e di più, però quando si tratta di fare i compiti gli crea un po' di problemi. Anche Yolanda è qua che dice anche a me, e lo so, i capricci per i compiti sono veramente molto frequenti. E Alberto, hai seguito Jacopo, che però non era capriccioso perché no. Ha preso da suo papà, e cosa, ma guarda, è un problema per noi, è molto un problema di organizzazione, di autonomia e di gestione. Cioè io non credo che un genitore debba necessariamente ogni volta che un figlio fa un compito essere lì di fianco e sostenere ogni singolo passaggio. Spesso per noi si è presentato il problema proprio nel tempo del weekend, quando c'è un sacco di ci sono un sacco di cose belle da fare e il momento dei compiti non arriva mai. In molti casi lo stimoliamo noi, questo è il momento dei compiti, altre volte però prendiamo questa decisione. Jacopo, domani mattina la maestra ti aspetta con i compiti, se entro le 7 di stasera, domenica, non sono stati fatti, tu ti prendi la tua responsabilità, scriviamo sul diario che hai deciso che per questo weekend tu eri esonerato, non volevi fare i compiti, e questa è la cosa che dirai alla tua maestra. Ecco, questo è un passaggio che muove immediatamente il bambino nella direzione, allora non dipende più dalla mamma o dal papà, dipende da me, devo prendere una decisione, voglio o non voglio fare i compiti, lo dovrò comunicare alla maestra. E Yolanda? Sì, volevo dire che appunto in effetti anche per me, che ho i bambini un po' più grandicelli, questa storia dei compiti è veramente incredibile, proprio con lacrime addirittura. Ma come? Io sono qui nel weekend, appunto, come diceva adesso il dottore, ci sono tante cose da fare, e mi ricordo questa scenetta che poi alla fine ti fa sorridere, ma non devi farti vedere che sorridi, ma comunque della bambina davanti ai compiti da fare che diceva sì, perché io lo so che le maestre adesso sono lì sedute in poltrona che guardano la TV, e invece a me hanno dato i compiti da fare, mi tocca e lavorare anche sul quaderno, con le lacrimone che scendono sul quaderno. Andiamo a Giorgio che ci chiama da Udine. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è già in età di compiti o un po' prima? No, è un po' presto. Allora, meno male, dai. Io sono il papà di Luca, un bambino di 4 anni e mezzo. È andato al nido prima, adesso al primo anno di scuola materna. È un bambino tranquillo, un bambino con cui si riesce a parlare, a dialogare, si raggiungono spesso dei compromessi, fermo restando io sono un papà un po' all'antica, ho 46 anni, è il secondo figlio, il primo è grande, e sono abbastanza fermo e deciso sulle mie cose. Se dico no, te lo motivo, te lo specifico, ma no. E resta. E ultimamente mi trovo ad affrontare un problema che mi spiazza completamente. Quando giochiamo o lui vince o apri ti cielo, cioè delle crisi isteriche, cioè lui non accetta di perdere, non ne vuole sapere, non ne vuole sapere di perdere, ma non è mai stato abituato a Giorgio, ma ogni tanto lo faccia vincere, un pareggio, no, sto scherzando. Voilà, siamo tornati, dottoressa Trinci, abbiamo ancora in linea con noi Giorgio da Udine, insomma il suo bambino non vuole perdere. Dunque, intanto io chiederei al nostro ascoltatore se lo fa con tutti di non voler perdere o se in particolare lo fa con il babbo. Giorgio? Giorgio? No, diciamo che in particolare lo fa con me, effettivamente. Quindi potrebbe essere, no, che il bambino, diciamo così, ha dei paragoni, se ho capito bene, c'ha un fratello più grande, molto più grande, quindi c'ha degli uomini intorno a sé, e allora lui che è piccino, in qualche modo, diciamo che forse, è una fantasia mia, mette dentro al gioco un po' chi sono io, no? Vedrai, ce la faccio anch'io sono grande, è anche un pochino un'età tipica, dove è molto forte, scatta moltissimo l'identità identificazione al babbo, quindi al maschile, e probabilmente in quella banale partita a biglie o quello che sia, lui ci mette davvero se stesso. Giorgio, le può tornare questa fantasia, come ha detto la dottoressa Trinci? Sì, l'unica cosa, ad esempio, lui è grande fisicamente per la sua età, per cui quest'anno al primo anno di scuola materna ha avuto un grossissimo problema di identificazione, perché era ovviamente tra i piccoli, ma era grande per i piccoli, voleva stare con i grandi, ma non c'era. Era piccolo per i grandi. Era piccolo per i grandi, per cui c'è stato un attimo di crisi effettiva in cui non riusciva a capire. Tant'è vero che a un certo punto ha detto: io non voglio crescere, voglio restare piccolo. Piccino. Siamo andati avanti veramente per un 3-4 mesi con questo... con questa tiritera del non voglio crescere, non voglio crescere, io voglio restare piccolo. E abbiamo sempre cercato, ripeto, abbiamo un rapporto in cui si discute, si parla, si affrontano le cose, non, nulla viene imposto se non con una motivazione. Sì. Dicevo prima, se è sì è sì, se no è no, te lo motivo, te lo spiego, però comunque resta no. E mio figlio più grande vive da solo perché è molto più grande, e per cui come maschio, come uomo di casa ci sono io come riferimento. Mia moglie c'è, è molto più tollerante, a differenza di quello che sentivo dire prima. Io ogni tanto risulto anche il mostro un po' della situazione. L'erode della situazione. Esatto, non è stato lei a mandarmi quel messaggio, immagino. No, no? Non sono stato io. Alberto, tu come papà che cosa faresti operativamente, concretamente? Mi sento di dire, proprio anche per esperienza personale, che tra i 4 e i 6 anni per i figli maschi è molto molto faticoso accettare una sconfitta. Quindi devono proprio un po' imparare a diventare perdenti, e una buona strategia proprio in termini educativi potrebbe essere, che ne so, se state giocando a calcetto, con un videogioco, con qualsiasi cosa, quando è il papà è lì per diventare il campione, fermare tutto e dire: adesso abbiamo una scelta, se vuoi io faccio finta di non essere più capace di andare avanti col gioco e tu potrai vincere, e questo sarà il tuo modo di vincere, oppure se vuoi concludiamo la partita come dovrebbe andare e io diventerò vincitore, ma tu dovrai tollerare la fatica di essere perdente, scegli tu quello che vuoi che il papà faccia. Giorgio, ci faccia sapere, noi andiamo a Trento perché ci aspetta Massimiliano. Buongiorno Massimiliano. Sì, buongiorno, grazie di avermi permesso di intervenire. E io ho questa situazione qui, da 2 anni ho una relazione con la mia compagna che ha già un bambino, l'ho conosciuto che aveva 8 anni, abbiamo uno splendido rapporto, cioè proprio veramente pappa e ciccia. La domanda per cui volevo io la risposta è questa: quando è con me, siccome sa che io sono molto flessibile ma pretendo anche un determinato comportamento, lui si comporta assolutamente perfetto. Quando c'è la mamma, che magari dà un filo di spago, tende a diventare molto più aggressivo e anche nel linguaggio molto più, passatemi il termine, violento, nel senso... Allora, della cosa. Io volevo chiedere, è vero che Massimiliano non è il papà del bambino, ma chiedevo a Veronica e Olanda se notate un comportamento diverso del vostro bambino rispetto a voi e rispetto a vostro marito, sì? No? Certamente. Cioè? Certamente, vabbè, il bambino maschio, adesso ho un maschietto che ha fatto da poco tempo i 3 anni, beh, io vedo che fanno i giochi da maschi. E lui ne fa meno di capricci col papà? Si scornano di più, come è vero, diceva Alberto. Sì, che fanno però... un po' come gli animali nella giungla, i giovani sì? maschi, no, che devono prendere la loro posizione nella vita. Con me è meno rispettoso nel linguaggio, è vero. E Yolanda? Sì, io vedo una differenza non solo nel loro comportamento verso la mamma e il papà, ma proprio anche verso i nonni, verso le cose. Cioè, loro sono in grado di cambiare, diciamo, il loro comportamento a seconda della persona che hanno davanti, se è più o meno rigida. Ve lo scrivo e poi andiamo ad aiutare Massimiliano da Trento. Ve lo chiedo perché Michele mi scrive: le mamme su questi temi sono un disastro, sempre molto acconsenzienti, anche a costo di escludere il padre. Per questo ci scrive: mi sono separato 2 volte. Allora, lo spunto suggerito da Massimiliano adesso richiede l'intervento di Alberto Pellai e della dottoressa Trinci. Dottoressa Trinci, a lei la precedenza. Ma dunque, io dico, a me sembra questo, che dietro, al di là del, mi sembra evidente che il bambino, utilizzando un comportamento diverso con la mamma, in qualche maniera stabilisca di nuovo, come l'altro bambino, un primato, il possesso è mio, ecco, e che quindi ci sia una conflittualità maggiore, mentre con il compagno della mamma sono, possono essere compagni di gioco quando sono insieme loro due, forse la presenza della mamma riattiva un conflitto di chi è la mamma. Io per esempio ho notato che dietro a tanti conflitti, a tanti capricci dei bambini, pensavo anche alla bambina, mi sembra, di Veronica, alla bambina piccola di Veronica, che la fa un po' impensierire perché ancora non è riuscita a stabilirci un dialogo, però ha un fratellino maggiore, mi domando se non potrebbe esserci la domanda nascosta di quanto spazio la mamma ha per me. Lei come è quando... molto gelosa del fratello e vogliono il possesso della mia persona fisicamente. Io sono una mamma molto coccolona e vedo e gioco molto anche in piscina, li porto io, li faccio tuffare io, cioè loro mi toccano in continuazione e vedo che ci tengono molto al primato del possesso fisico della mamma. Quindi capito, certe volte come quando comincia la fase del perché, ma perché, ma perché, cioè è proprio un modo che il bambino ha, perché non ne ha altri, non ha cioè la possibilità di pensare, riflettere, elaborare e poi costruire una domanda, no? Come possiamo noi fare nelle relazioni anche che ci premono di più. Quindi utilizza dei modi certe volte anche rozzi, allora perché, perché, perché, oppure si impunta e guardate altre volte fanno dei capricci di cui non abbiamo parlato, ma che sono altrettanto terribili, mettono il broncio, si mettono in silenzio ostinati, cioè io credo che mettano molto alla prova, io li farei rientrare anche questi nella gamma variegata dei capricci, quindi penso che il genitore possa un po' provare, io generalmente vedo che i genitori proprio da soli trovano degli escamotage, che è quello, per esempio poi di non far sentire il bambino troppo appesantito anche dall'aver fatto arrabbiare il genitore. Allora ci sono dei diversivi che dopo una fase di capriccio, se i bambini soprattutto sono molto piccoli, non conviene nemmeno starne tanto a parlare, conviene fargli fare al bambino delle attività di tipo riparatorio, cioè come giocare con l'acqua, travasare l'acqua, usare la plastilina oppure per la chiudere tazza. In un certo senso un po' la partita, dottoressa Trinci. Insomma, sì. Si mette punto e a capo e si va avanti. Esatto, allora, di capricci noi vorremmo parlare ancora, torneremo sicuramente a parlarne perché i messaggi e telefonate sono state tantissime. Ringrazio le nostre mamme che aspettiamo sicuramente per il prossimo martedì, il secondo martedì di ogni mese. Le mamme dei blog d'Italia scelgono, andate su blogmamma.it e troverete i temi, ne potete suggerire anche voi. Alberto, Yolanda, Veronica, dottoressa Trinci, grazie. Grazie a tutti voi e a presto, spero. Adesso è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura, restate con noi. Grazie all'iniziativa di Internet Book Shop oggi potete ricevere a casa il libro che si intitola Coccole e Capricci. Per riceverlo a casa dovete mandare un'email a esserebenessere@radio24.it con titolo, recapiti e numero di telefono. In collaborazione con ibs.it. E prima di salutarci saluto la dottoressa Scios che è qua in studio con me. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Psicologa, psicoterapeuta, specialista in terapie brevi e tecniche di rilassamento. Il caso che vorrei sottoporle oggi è dedicato a chi deve affrontare un appuntamento importante in cui sa che deve dare il meglio di sé. Siamo un po' agitati, ci vengono in mente mille dubbi, mille paure, naturalmente un po' di fragilità, no? Ciascuno di noi è fragile, non si sente mai adeguatamente preparato, ma dobbiamo recuperare in qualche modo tono, energia, sicurezza, perché sennò il fallimento è assicurato. E soprattutto naturalezza, perché diamo il meglio di noi quando riusciamo a essere naturali, quando riusciamo a essere presenti a noi stessi, presenti a quello che succede intorno a noi, alla situazione, quando siamo capaci di ascoltare, di guardare, di sentire la persona che ci sta davanti. Beh, non è semplice, dottoressa Scios, per lei che è abituata a un curriculum di tutto rispetto, lavora su questi temi, su queste tecniche, farlo, passare dalla teoria alla pratica non è poi tanto semplice. Magari ci può aiutare con un esercizio, un pensiero. Proviamo. Proviamoci, dai. proviamo a entrare in questo stato ideale con un piccolo esercizio di rilassamento. Siediti con la schiena diritta ma non rigida, i piedi ben appoggiati a terra, gli occhi chiusi, senti l'aria che entra e che esce dal naso. Se ti distrai, non importa. Ritorna con l'attenzione all'aria che entra e che esce dal naso. Ti accorgerai che un po' alla volta il respiro diventa più lento e più profondo. Ce l'abbiamo quasi fatta? Io me lo auguro. E per oggi è tutto. Un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.